Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, la primavera è davvero arrivata, anche se a tutti noi è consentito guardarla solo da lontano. Possiamo sempre continuare a viaggiare però con i racconti e le immagini, il sommario. Questa settimana la protagonista è l'Emilia Romagna, andiamo a Montefiore Conca a scoprire la rocca e i suoi segreti e poi a spasso tra i portici a Pieve di Cento, Borgo Arancione. In chiusura i musei civici di Venezia ci aprono le porte per parlarci di come stanno portando i musei a casa nostra. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no and her daddy has told her to go. L'Emilia Romagna ci fa pensare al mare, alla riviera, all'estate, al sole. Ci sono però anche le colline e tantissimi piccoli borghi dove andare a curiosare. Montefiore Conca è uno di questi e qui c'è una rocca molto più che imponente che vi guarda da lontano e che custodisce tante storie nella sua storia. La rocca è la proposta di questa settimana della nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Buon pomeriggio Olivia, ben ritrovata. Ciao Valeria, buon pomeriggio, come stiamo? Dai, stiamo bene, ce la caviamo, stiamo bene, magari riusciamo anche a vedere una piccola luce in fondo al tunnel, quindi direi che dobbiamo essere ottimiste. Altro che. Allora, Livia, questa settimana risaliamo, perché la scorsa settimana, lo ricordiamo, eravamo state in Campania. Questa settimana risaliamo un pochino, ma andiamo ancora una volta in un posto che ha vissuto alterne vicende, soprattutto negli ultimi anni. Però con te ovviamente partiamo dall'inizio. Certo. Allora, oggi andiamo in Romagna, Valeria, per la precisione a Montefiore Conca. Siamo a 400 metri sul livello del mare, a metà strada tra Rimini e Urbino, a una dozzina di chilometri dalla costa adriatica, e siamo arrampicati su una collina che domina la valle del fiume Conca. Il paesino in sé è un incanto, ha conservato la sua struttura medievale circondata da mura e torri ed è una specie di semicerchio abbracciato alla sua fortezza, completamente colorato del rosa dei mattoni. Ed è nato e ha avuto una fortuna già nell'antichità perché è collocato vicino alla via Flaminia, che in epoche passate era una strada frequentatissima di collegamento tra l'Adriatico e Roma. Dunque, abbiamo detto che siamo in Romagna, Valeria, e qui voglio aprire una sorta di micro parentesi circa questo territorio, perché sappiamo tutti che la Romagna nell'immaginario collettivo è solo turismo di massa e quindi è una destinazione rispetto alla quale la maggior parte della gente storce il naso. Io sono un'appassionata della Romagna perché la Romagna è in realtà davvero una meraviglia e lo è da tutti i punti di vista. Perché riesce a essere contemporaneamente storia millenaria e fantastica gastronomia, paesaggi indimenticabili e interessanti reperti archeologici, castelli spettacolari, vedremo, e alcune chiese davvero stupefacenti. Ci sono queste colline morbide sulle quali le stradine si arrampicano e ci sono i paesini arroccati color mattone chiaro che sembrano quasi spiare il mare da lontano. Ci sono questi campi coltivati bellissimi che sembrano dipinti sulla terra. E in sostanza è sufficiente allontanarsi un pochino dalla ressa delle coste e imboccare una qualunque strada che porti in direzione dell'entroterra per incappare in un gioiello architettonico dietro l'altro e per trovarsi davvero davanti a un paesaggio talmente bello, talmente splendido, che Ezra Pound, per definirlo, ha scritto: ho provato a scrivere il paradiso, non ti muovere, lascia parlare il vento, così è il paradiso. Ecco Valeria, per me che Montefiore Conca è un pezzettino di paradiso, perché c'è questo colle circondato e abbracciato da boschi e campi coltivati, c'è questa alternanza di verde e ocra, c'è questa vista meravigliosa che spazia da Ravenna a Fano, e in cima c'è questa rocca squadrata, grandissima, imponente, talmente imponente che la scorgi da lontanissimo, un vero e proprio guardiano immobile di pietra e spigoli vivi. Un po' un contrasto tra la dolcezza di queste colline e invece l'imponenza, no? di questa rocca. Altro che, perché il panorama è tutto tondo, è tutto morbido, è tutto tondo, e la rocca è proprio squadrata, è proprio rigida, è proprio geometrica, diciamo, quindi è un bellissimo contrasto. Risale al XIV secolo e è stata edificata per volontà di Malatesta III, non ci sono informazioni certissime, si ipotizza sulle rovine di un antico castrum che risaliva a due secoli prima. Ed è stata edificata con lo scopo di farne l'ennesimo, imponente, grandissimo tassello di un sistema di strutture difensive estremamente complesso ed estremamente ricco, che aveva lo scopo di proteggere i territori dei Malatesta, che ricordiamo sono stati padroni indiscussi della signoria di Rimini e di tutta la Romagna praticamente per tre secoli. Però la funzione militare e strategica che la rocca ha all'inizio, a metà del 300 viene addolcita da una destinazione d'uso completamente diversa. A questo punto si amplia la sua struttura, la si arricchisce di particolari decorativi e di affreschi, si trasformano quindi gli spazi e si dà vita a saloni di rappresentanza molto imponenti, a stanze per ospiti curatissime, e queste stanze e questa trasformazione finiscono per rendere la rocca una residenza estiva che è stata amatissima dai Malatesta e un luogo di ospitalità frequentatissimo dai signori del territorio, da re, regine, papi, imperatori, insomma tutta la crema della Romagna. Un altro contrasto, Livia, a questo punto tra il dentro e il fuori. Altro che, un grandissimo contrasto tra il dentro e il fuori, proprio perché la natura militare è rimasta nella struttura esterna e la natura di svago residenziale è invece conservata ancora oggi nella parte interna e nella parte che si può visitare. Come dicevi tu giustamente all'inizio, anche la rocca di Montefiore Conca ha avuto delle vicende un pochino travagliate nel suo passato, è passata di mano in mano tra i signori del tempo ed è stata vittima di un degrado tremendo che l'ha snaturata all'epoca per certi versi, fino a che a partire dagli anni 50 non è stato iniziato un importante lavoro di restauro che l'ha riportata alla condizione strutturale più o meno originaria e che ce l'ha resa in tutta la sua bellezza attuale. È un monumento meraviglioso, ma come dicevi tu, credo che la cosa più straordinaria ancora oggi sia questa sua duplicità, quindi questo contrasto palpabile tra il rigore strutturale dell'esterno e la cura degli interni, questa contrapposizione che cogli, non so, tra i muraglioni possenti, le torri, i cammini di ronda che stanno fuori e gli affreschi delle sale, gli intagli curatissimi nella pietra delle decorazioni interne. Questa contrapposizione la rendono, secondo me, profondamente viva e profondamente capace di raccontare una storia di un territorio che è stata fatta di contrasti. Tra l'altro, Livia, da quello che leggo, questa rocca contiene anche tante altre storie, cioè è una storia nella storia, perché ha tante piccole cose da andare a scoprire, a volte si tratta di miti, di racconti, però insomma ci sono tante cose da andare a ricercare. È molto sfaccettata, perché per esempio c'è una bellissima raccolta di maioliche blu e gialle che era tra l'altro una produzione caratteristica della zona già in tempi molto remoti. Ci sono degli interessanti reperti archeologici che hanno scovato scavando le fondamenta. C'è per esempio una cosa che a me affascina, il pozzo del cortile principale che è ricavato da un unico blocco di pietra di Istria. E poi, come dicevi tu, ci sono le leggende, c'è la leggenda del presunto tesoro nascosto in una delle torri di guardia e soprattutto quella di Costanzo e Ormanno, che sono stati degli amanti infelici uccisi in una notte d'autunno e dei quali, secondo la leggenda, ancora si potrebbero sentire i lamenti. In pratica la rocca è la rappresentazione perfetta di quello che Ariosto avrebbe scritto due secoli dopo nei versi di apertura dell'Orlando Furioso, cioè le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audace imprese, di tutto un po', insomma. C'è proprio di tutto dentro questa rocca, che però tu, diciamo, lasci con un ultimo consiglio che non ha tanto a che fare, a che vedere con l'architettura esterna e interna, che ovviamente è da apprezzare e gustarsi nel momento in cui si va a visitare, ma è qualcosa di veramente particolare. Sì, è un consiglio dei sensi in qualche modo. Visitandola, lasciatevi incantare dal rigore del suo impianto architettonico, dalle geometrie perfette della sua forma, dalla bellezza delle sue sale imponenti. Ma poi fate una cosa, salite sulla sua terrazza più alta e fermatevi. Fermatevi più che a guardare ad ascoltare, perché dalla cima della rocca si coglie sicuramente questa vista spettacolare che abbiamo detto essere unica, ma soprattutto secondo me si sente il silenzio incantato di questo paesaggio e il permanente respiro di un vento che in ogni stagione sa incredibilmente di mare. Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via. Si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo, la vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio. Trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Globetrotter 24. Pochi istanti e ci ritroviamo ancora in Emilia-Romagna. Abbiamo fatto qualche decina di chilometri e siamo arrivati a Pieve di Cento, la piccola Bologna la chiamano. È uno dei borghi arancioni del Touring Club. Il primo cittadino, Luca Borsari, ci racconta come sta vivendo la sua comunità questo momento. Purtroppo viviamo come tutto il paese sta vivendo, chiaramente noi siamo dei paesi di frontiera, anche se ben lontani dal dramma totale, dramma della Lombardia, dei territori più colpiti dal focolaio, però sì, c'è questo clima surreale che viviamo anche noi nel nostro piccolo paese di Pieve di Cento, in cui c'è questo clima di paura, di sospensione in cui la comunità sta vivendo, e stiamo cercando di fare sia dal punto di vista istituzionale come amministrazione, ma dal punto di vista della comunità tutta intera, quello che si deve fare. Abbiamo messo in piedi una piccola rubrica online che si chiama Piede Racconta, attraverso la quale cerchiamo anche di dare contenuti, intrattenimenti, riscoprire anche i nostri tesori, le nostre perle preziose, e abbiamo cercato di attivare servizi che sono poi funzionali a quello che il governo sta facendo, ad esempio l'attivazione dell'identità digitale. Nella tragedia c'è questa cosa bella di una comunità che si unisce e prova di fare ciascuno il proprio compito. Ecco, proprio in quest'ottica, no? Nell'ottica della comunità, che a questo punto io estendo a tutto il paese, e riallacciandomi anche un po' a quello che lei citava, e quindi al dare anche dei contenuti per far scoprire anche le bellezze, riscoprire magari le bellezze, noi ci impegniamo in questo. Adesso dobbiamo stare a casa, però tra qualche mese, speriamo il prima possibile, potremo tornare a uscire. Allora io le chiedo di raccontarci un po' il suo comune, perché potrebbe essere lo spunto per fare una gita, un weekend, un fine settimana lungo, per venire a scoprire com'è Pieve di Cento. Volentieri, anche aiuta l'animo a parlare del proprio paese, e di un paese che intanto è noto ormai, diciamo, quasi storicamente come la piccola Bologna. E poi il poeta, purtroppo scomparso, Roberto Roversi, la battezzò in un suo piccolo libricino di Bellum, la sua piccola Atene emiliana. Questi epiteti, questi nomi vengono dati a un paese che è un borgo con le strade principali porticate, con quattro porte ai quattro punti cardinali che ne segnano l'ingresso, in quel centro storico che sicuramente, posso dirlo senza essere rimproverato di superbia, è sicuramente uno dei centri storici meglio e più conservati della provincia di Bologna, sicuramente. Da decenni le amministrazioni che si sono susseguiti questa cosa l'hanno ben capita e hanno cercato anno dopo anno di conservare il patrimonio immenso per un paese, come ho detto prima, di 7.000 abitanti, un patrimonio culturale, urbanistico, storico, testimoniale davvero inestimabile. E quindi negli anni si è conservato questo patrimonio e si è cercato in tutti i modi possibili di valorizzarlo. Le nostre porte, la rocca medievale del 1300, una collegiata che conserva e che contiene una tela del Guido Reni alla pala d'altare principale e una tela del Guercino, che è l'Annunciazione. Abbiamo un teatro all'italiana conservato all'interno del municipio, abbiamo un archivio storico di valore inestimabile, una pinacoteca che conserva tele e collezioni anche veramente. Sono sorprese che si potrebbero incontrare venendo a Pieve. Ad esempio c'è una collezione molto numerosa di Sepo, che è questo famosissimo autore di grafica pubblicitaria dei primi anni del Novecento, e Pieve di Cento conserva un'opera veramente immensa di questo autore. Quindi si passa da, sono chiaramente passato di secoli, da Guercino a Sepo. Quindi questa è Pieve di Cento, ed è un borgo che appunto ha saputo conservare questo patrimonio e ha saputo, come ho detto prima, valorizzarlo. Quindi è da scoprire, è proprio da scoprire percorrendolo, e sono anche in questo caso sicuro di non poter essere smentito da nessuno. La bellezza, il valore aggiunto che Pieve di Cento ha, oltre alle ricchezze artistico-storiche, è quello di una comunità piccola, ok, ma non solo piccola, anche molto accogliente dal punto di vista dell'offerta enogastronomica. Abbiamo ristoranti che so che in tutta Italia ce ne sono, ma qui a Pieve di Cento, anche qui a Pieve di Cento, ci sono ristoranti inseriti nelle guide, anche rinomate guide della Michelin, in cui poter mangiare davvero, davvero bene. Ma quello che più mi preme dire e sottolineare è che è un paese in cui ci si sente accolti, c'è una comunità in cui poter, percorrendo i portici, entrando nei suoi ristoranti, visitando le strade, le piazze di Pieve, la piazza della Rocca per dirne una, è proprio un luogo in cui ci si sente abbracciati da questi piccoli portici, in cui si capisce veramente, si respira di essere in una piccola Bologna. Quindi questo spero con una sintesi bestiale, quindi non so se sono riuscito a dire tutto, anzi sicuramente no, però c'è tanto. Beh, ma non doveva dire tutto, perché poi bisogna venire a scoprirlo, se no non c'è più gusto. Senta, sindaco, io le voglio chiedere l'ultima cosa. C'è un appuntamento che dall'estate in avanti vi caratterizza particolarmente? Allora, sicuramente c'è la festa del nostro paese, che è una festa che da secoli viene celebrata il primo fine settimana di settembre, una festa religiosa prima, poi diventata anche quella che negli anni si è chiamata Fiera di Pieve, ma meglio nota a tutti come Festa dei Giovani, ed è la festa paesana che è diventata negli anni sempre di più una sagra all'aperto in tutte le strade del paese. Ma poi ci sono altri appuntamenti, ecco, dall'estate in avanti no, però c'è il carnevale, che anche noi abbiamo un carnevale ormai storico di Pieve di Cento dedicato in particolare ai bambini, così come abbiamo appuntamenti fissi, mensili, che è la quarta domenica di ogni mese, c'è un mercatino degli oggetti di antiquariato, il mercatino del riuso che riempie le strade del centro storico, però sì, sicuramente l'appuntamento più folcloristico è quello legato alla festa paesana di settembre. Attraversiamo il confine regionale e arriviamo in Veneto. Con l'immaginazione siamo in Laguna e la direttrice dei Musei Civici di Venezia, Gabriella Belli, ci racconta come si sono organizzati per portare le loro collezioni nelle nostre case. Come tutti i musei in Italia, noi siamo chiusi ormai da tanti giorni e devo anche dire che Venezia ha avuto purtroppo una piccola aggravante, cioè aveva subito a novembre l'acqua alta, la grande marea dei 187 centimetri, e devo anche dire che ci eravamo ripresi immediatamente per quanto riguarda la riapertura di quasi tutte le nostre sedi, però avevamo ancora due musei, Palazzo Fortuni e il Capesaro, chiusi. Quindi in questo momento particolare della vita della nostra fondazione abbiamo un po' dovuto rigenerare un po' le nostre abitudini, il nostro modo anche di lavorare, perché come tutte le istituzioni anche il personale è in casa. È chiaro che tutta la nostra attenzione si è rivolta a rigenerare e a dare fiato a tutti quelli che erano stati già da molti anni testati, e cioè il lavoro sui social, che come in altri casi ha trovato un impegno molto forte e molto più importante. La nostra voce quindi si è, da questo punto di vista, si è ampliata utilizzando tutti i sistemi che ci mettono in collegamento sia con il nostro pubblico ormai affezionato di utenti, sia anche con un pubblico nuovo che vediamo con un certo interesse ha iniziato a seguirci. Abbiamo individuato vari filoni, da quello che riguarda la parte più education, quindi legata al nostro settore didattico, nel quale c'è una si privilegia il rapporto proprio con i ragazzi e anche con le famiglie, che è sempre stato un po' il nostro un campo in cui noi abbiamo sviluppato molta attenzione. E quindi l'education, il nostro settore education, sta lavorando molto su questo ambito, più finalizzato, più diciamo che ha anche degli obiettivi formativi in qualche modo, di conoscenza e di maggiori approfondimenti. E invece dall'altra parte, sulla pagina Facebook, Instagram, eccetera, abbiamo avviato per ora una rassegna interessante, scoprendo capolavori o opere che magari che apparentemente meno significative, da carte geografiche importantissime del 1300 o a oggetti iconici della fondazione, che possono andare da quadri di Carpaccio, Klimt e altro, per raccontare delle storie che possono in qualche modo anche far scoprire, svelare dei piccoli misteri della fondazione che sono rimasti magari dentro gli scaffali di un deposito o nelle cassettiere di opere della grafica, come nel caso per esempio di carte geografiche. Quindi l'idea è stata di muoverci in maniera, diciamo, un po' difforme rispetto ad altre proposte di altri musei, trovando anche noi in questo una nostra in qualche modo identità. Under pressure. Settimane in cui appunto avete dovuto anche voi reinventarvi, c'è stato un qualcosa che avete raccontato, che avete presentato, che avete esposto, mi passi questo termine, che ha ricevuto maggior successo rispetto ad altro? Ma devo dire che abbiamo avuto tanti riscontri. Certo, alle volte in questa nostra gara per lavorare al meglio e anche per essere presenti, direi che tutta l'attività del settore education ha avuto un bellissimo applauso da parte del pubblico, dei bambini. Abbiamo per esempio inventato questi puzzle che si realizzano attraverso proprio, diciamo, delle semplicissime touch, quindi interattivi, che hanno avuto un grandissimo riscontro. E poi certe riflessioni, per esempio, sul pensatore di Rodin, su alcune figure, diciamo, chiave della storia dell'arte di cui possediamo le opere, insomma, hanno avuto molti like. Per questa domenica ci fermiamo qui, se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.